simbolo di quest'Italia che sta cercando la sua strada alla modernità. Quello che accade in quegli anni è che cambia il paesaggio domestico, così come cambia il paesaggio urbano, le autostrade, la motorizzazione, ecco, anche dentro casa c'è qualcosa di analogo. Negli stessi tempi cambiano gli oggetti, cambiano le forme, cambiano i colori, cambiano i materiali. Un oggetto simbolo è senz'altro il frigorifero, che fa acquisire una nuova capacità di conservazione del cibo, il che significa anche una diversa modalità di fare la spesa, così come la plastica è di quegli anni. Ilmo Plem, Giulio Natta, Nobel per la chimica, poi nel 1953-1954 invece brevetta la plastica moderna. Sostanzialmente il Moplen porta nuove funzionalità e porta colori nelle case e nelle cucine. La stessa cosa vale per il vetro da fuoco piuttosto che per l'acciaio che sostituisce man mano l'alluminio, quindi, o piuttosto che con la formica, che è un rivestimento comodo, colorato, lavabile, a prova di bambini, e le famiglie in quegli anni sono popolate, no, di molti bambini. Che cosa può dire quell'Italia all'Italia di oggi? Beh, diciamo che quell'Italia era un'Italia che tra grandi difficoltà ha mantenuto la fiducia in se stessa, ha mantenuto la sua capacità di guardare al futuro, era fatta di famiglie con genitori che si rigiravano i cappotti per far studiare i figli, perché avevano la certezza che il futuro dei propri figli potesse essere migliore del loro presente. Mi sembra un messaggio di grande attualità. Viva l'Italia! L'Italia liberata! E qual è invece l'Italia che racconta oggi Twitter nel mondo? Quanto si parla dell'Italia e a proposito di quali argomenti? Che cosa twitta un tedesco piuttosto che un inglese? Questo è l'oggetto di una ricerca effettuata da Alma Wave, uno spaccato del nostro paese visto dagli utenti Twitter in tutto il mondo, sulla base di oltre 13 milioni di tweet analizzati in 6 lingue negli ultimi 2 mesi. Ebbene, lo sport vince su tutti gli altri argomenti, monopolizza il 40% dei tweet che ci riguardano. In quanto al cibo, la pizza batte la pasta, e queste fanno parte del capitolo conferme, ma ci sono anche alcune sorprese. Valeria Sandei di Alma Wave. È una tipica analisi, come viene chiamata, big data, ovvero processare milioni in questo caso di tweet in diverse lingue del mondo, quindi in inglese, in francese, in tedesco, spagnolo, portoghese e italiano, per trarne una fotografia, un'evidenza su un tema di potenziale interesse ad alta complessità. L'esito è stato un esito molto interessante, perché si comprende che si parla molto di noi, del nostro paese, e se ne parla per tantissimi temi diversi e con tantissime sfaccettature diverse. Un tema sicuramente molto dibattuto è il tema dello sport, in realtà, quindi pur avendo focalizzato un'analisi sul nostro territorio, ce n'è stato poi un ritorno in cui emergeva costantemente poi il tema dello sport delle nostre squadre di calcio in particolare, e già lì si è vista una fotografia molto interessante. Pensate addirittura che uno dei paesi dove emerge proprio di più il tema Italia e i contenuti correlati è l'Indonesia. Io l'ho associato a un effetto inter, diciamo così. Poi è emersa una geografia di contenuti estremamente ricca, estremamente variopinta, dove oltre lo sport si parla del turismo, delle nostre località, si parla dei nostri vini, emerge fortemente questa conoscenza ad esempio del Chianti come vino estremamente popolare su Twitter, piuttosto che di località. Le prime della classifica sono Roma, che è la città più commentata, seguita da Milano. Un altro aspetto, ad esempio, è quello dei luoghi di interesse, per cui ad esempio accanto al Colosseo, che se vogliamo tutti diamo un po' per scontato, segue il Pantheon e segue il Duomo di Milano. Citiamo anche i risultati della classifica delle specialità alimentari, non solo la pizza, anche qui ci sono delle sì, sorprese. La pizza, voglio dire, è buonissima e quindi è giusto che venga commentata come uno dei nostri prodotti più importanti, ma poi appunto nel dibattito ci sono anche prodotti di tipo diverso. Ad esempio si parla del tartufo. Chiaramente queste analisi sono, diciamo, condizionate anche dal periodo stagionale in cui sono state condotte, ma questo proprio ad affermare che anche su prodotti più regionali, più locali, c'è un dibattito legato alla qualità e alla bontà della nostra enogastronomia su cui fare delle riflessioni. Chiudiamo con la nota dolente: che cosa non va, di che cosa ci si lamenta in rete dell'Italia che non funziona? Qui non abbiamo voluto connotare la nostra indagine di un'analisi di sentiment, ma è chiaro che quando parliamo di problemi sulle prenotazioni online o sulla fatiscenza di alcuni monumenti o anche sul rincaro dei prezzi, le sentiment non è tipicamente un sentiment di tipo positivo. Anche qui è molto interessante vedere come la geografia di questi commenti sia differenziata. Ad esempio, il tema del rincaro prezzi è un tema che viene dibattuto prevalentemente in lingua spagnola. Quindi è interessante anche vedere come nelle diverse lingue, quindi nei diversi paesi, possano essere percepiti degli aspetti che altrove invece sono meno forti e meno significativi. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di interazione tra mondo fisico e mondo virtuale come nuova carta vincente nel retail, anche pensate per i centri commerciali. Codice a barre di Cristina Lazzati. Si parla spesso di omnichannel, cioè la possibilità di interagire tra punti di vendita fisici e virtuali con la possibilità di engagement, ingaggio del cliente. Ma come questo nuovo modo di vedere lo shopping andrà a cambiare i centri commerciali? Un esempio recente ci viene da San Francisco, dove eBay ha inaugurato una collaborazione temporary con Westfield Shopping Mall, aprendo 3 vetrine digitali di altrettante insegne: la stilista Rebecca Mienkoff, il Greens Toms e il tecnologico Sony. Tutti marchi che al momento non sono presenti con un negozio tangibile nel centro, e così facendo si sono accaparrati uno spazio certamente meno costoso e che permette loro di contribuire al traffico sui loro siti internet. Un ottimo esempio di omnichannel anche per il centro. Non ci stupiremo dunque se nei centri commerciali ci capiterà sempre più spesso di essere ingaggiati tramite Foursquare per offerte lampo o magari solo per essere avvisati che la pizza sta per essere sfornata nella food court. E lo showrooming? Il grande mostro del retail nell'epoca del 2.0, che consiste nel vedere i clienti entrare nel proprio negozio, toccare, provare e poi comprare via internet da un altro. Perché non farne un alleato? Lo sta già facendo Gap, retail americano presente anche in Italia, che ha lanciato un nuovo servizio, Reserve, che permette ai clienti di selezionare i capi online e di passare in negozio per provarli e ritirarli. L'experience di shopping sta cambiando e, entrando in un centro commerciale, incontreremo magari meno merce, ma molti più servizi, e grazie al 2.0 saranno fatti su misura. In vetrina, perennemente esposti alle tecnologie, ai codici del gruppo, alla sperimentazione di tutto quello che è nuovo, ma anche ai rischi che tutto questo comporta. Sono gli Expo Teens, i nuovi teenager protagonisti del mondo dei consumi. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Lui è Mark. Ciao. Ciao, io sono Nikki, lei è Sam. Ciao. Cavolo, c'è Paris Hilton. E Kirsten Dunst. Non ci bastava solo conoscere le celebrità. Volevamo vivere come loro. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp. Paris Hilton è a Las Vegas per una festa stasera. Dove abita? Riusciamo a entrare a casa sua? Non lo so. Dai, andiamo a casa di Paris. Voglio le sue cose. Ho l'impressione di fare finta. Di fare finta su tutto. A me manca qualcosa. Chi è la ragazza che è venuta a trovarti? Con i capelli blu. Quello che mi piaceva era prendere gli appuntamenti, chattare con loro su internet e poi andare, scoprire l'hotel, non sapere con chi sarei andata a letto. Era come un gioco. Quanti anni ha lei veramente? 17. 17 anni. Che bella età. Focus sui trend. Da The Bling Ring alla vita di Adele, passando per Giovane e Bella, tre dei film più significativi di questi ultimi tempi sull'adolescenza, tre storie che rispecchiano molti dei fatti di cronaca più inquietanti, che pongono una serie di interrogativi su questa fascia d'età, oggetto da sempre di analisi e ricerche. Una generazione in vetrina, potremmo dire, perennemente sovraesposta, sono gli Expo Teens, secondo la definizione di Future Concept Lab. Linda Gobbi, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno Maria Luisa, buongiorno a tutti voi. Chi sono? Che cosa fanno gli Expo Teens? Sono teens, adolescenti, e come già hai anticipato, il suffisso Expo sono ragazzi, adolescenti che vivono in vetrina, esposti. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie sono adolescenti che vivono la propria identità come esposizione. Si espongono molto, prendendosi anche dei rischi, ma sono anche esposti, analizziamo noi, in qualche misura poco protetti da una comunità, da una società adulta, e oggi in particolare gli adolescenti vivono questo fenomeno di esposizione mediatica mai così evidente. L'esposizione per loro è in ogni momento della vita quotidiana. Sono sempre i primi ad adottare le nuove piattaforme. Sono i primi ad adottare le nuove piattaforme, ma sono anche i primi ad allontanarsene. Il fenomeno molto interessante di questi tempi è il loro allontanamento, ad esempio, da Facebook. Sono stati assolutamente i primi ad accelerarne l'uso, a coinvolgere anche gli adulti, se vogliamo, le generazioni dei genitori. Oggi per gli adolescenti la piattaforma più interessante è Instagram e Pinterest. Perché? Perché è strumento di esposizione della loro creatività. Oggi più di ieri forse sono oggetto di attenzione di chi fa ricerca sui consumi. Possiamo citare qualche esempio di strategia vincente dei brand verso questo target? Strategie interessanti, più che vincenti, sono di coinvolgimento, chiamarli in campo, chiamarli in azione. Ad esempio, Nike che cosa propone a queste giovani generazioni? Di inviare una propria foto nella comunità Nike, quelle immagini, a seconda del gradimento di tutta la comunità social, verrà poi disegnata e ci sarà il modello più famoso di Nike, le Air, il modello Air, che saranno decorate con un'idea di design proveniente da questa comunità, quindi una Air customizzata su un'idea di design creativa delle giovani generazioni. Un altro esempio molto interessante, un'azienda di sportswear che si chiama Johnny Cupcakes, quindi ha nel nome i piccoli dolcetti che oggi anche in Italia, in tutta Europa, stanno in qualche modo segnando l'immaginario del consumo. Con un occhio vintage, tutto l'allestimento del negozio è una bakery, una antica pasticceria, quei banchi lunghissimi dove scegli i dolci, dove i nostri genitori sceglievano i dolci della domenica, oggi è un negozio per questi adolescenti. Ci sono parole chiave, nicchie di interesse per gli Expo Teens che possiamo tracciare? Assolutamente, da questo punto di vista sì. Innanzitutto free, libertà. Libertà creativa, tutto ciò che è gratuito, e questo arriva davvero dalla rete. Scaricare musica, immagini, postarle, per loro la logica free è assolutamente pane quotidiano, quindi libertà. E però attenzione, è una generazione che inizia a sperimentare, quindi briglie sciolte, e proprio questo che poi sollecita, come i film che hanno introdotto questa conversazione, la libertà che cercano gli adolescenti, deve avere un occhio vigile del mondo adulto, perché il rischio di superare soglie etiche non ancora interiorizzate è altissimo. Fast, velocità, fast fashion, fast food, che però deve essere buono, ricercano il buono. E poi una grande parola, talento e passione, coinvolgerli, ingaggiarli sui loro talenti e le loro passioni, condividere progetti, divertimento, passioni, è il loro mondo vitale. Per gli adolescenti l'approvazione e il consenso del gruppo è fondamentale. Italian Factor. Siamo alla consueta riflessione finale, è lo spazio che dedichiamo all'analisi, alla visione strategica del nostro ospite fisso, all'insegna dell'Italian Factor, il nostro viaggio alla ricerca degli elementi su cui giocare la scommessa della ripresa, il nostro acceleratore del Made in Italy, così l'abbiamo definito più volte. Saluto accanto a me Francesco Morace, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Dalle virtù, dunque, da una dimensione psicologica in qualche modo siamo passati ai fattori potenziali, dunque ad una più socioculturale. Abbiamo parlato di prossimità, Francesco, oggi? E oggi parliamo di felicità, è un tema molto impegnativo, molto importante, su cui sono stati ridefiniti i fondamentali anche della scienza economica. In particolare Daniel Kahneman, che ha vinto il Nobel per l'economia, ha scritto libri importanti su questo ed è interessante perché è uno psicologo che vince il Nobel in economia e questo ci indica l'importanza di questo tema e anche in fondo le nuove priorità anche nella nuova, diciamo, globalizzazione, nella nuova economia, e cioè la qualità dell'esperienza, la felicità dei momenti che vanno al di là dell'accumulazione del consumo classico. Quanto l'arte della felicità è italiana? L'arte della felicità è molto italiana, tra l'altro questo è anche titolo di un film che sta diventando un film di culto, tra l'altro che racconta la mia città, che è Napoli, e che è diventato un ragionamento, una riflessione su come in situazioni anche difficili di vita noi riusciamo a coltivare questo piacere, che è il piacere di stare insieme, che è sicuramente il gusto anche nel mondo alimentare, è l'eleganza. E sono tutte dimensioni psicologiche che oggi dobbiamo trasformare in valenze economiche. L'Italia è famosa nel mondo per la sua capacità di godersi la vita, pensiamo un esempio scontatissimo alla dolce vita. Potrebbe diventare la capofila di questo processo di trasformazione dal PIL al FIL, uno dei modi in cui si è chiamato, insomma, questo nuovo modo di misurare il benessere? Non c'è dubbio, noi abbiamo creato un'espressione che è dance minimal pleasure, sono i piaceri minimi ma profondi, che possono essere l'espresso illy piuttosto che l'ovetto kinder che implica una sorpresa, l'oggetto di Alessi, che non a caso ha lavorato proprio su questa idea dei codici affettivi di Fornari. Il consumo in Italia e i produttori italiani guardano istintivamente a piccole felicità della vita e su questo costruiscono il loro successo. Francesco Morace, grazie, alla prossima. Grazie a voi. E grazie in regia anche a Pietro Lacorte. Trovate tutte le info e la puntata da riascoltare o scaricare sulla nostra pagina Facebook e sul sito di Radio 24, sezione programmi Essere e Avere, in attesa di risentirci come sempre sabato prossimo alle 16:30. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.